Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko da Bologna, via Zanardi per la precisione, e la trasmissione che sta iniziando si chiama Città Fujiko Live Club. Il tutto naturalmente dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza oppure dalla app che potete scaricare gratuitamente sul sito radiocittafujiko.it, app che vi permette di ascoltare la vostra radio preferita all over the world. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità anche in questa estate che sta arrivando. E a proposito di questo, dico subito che per un po' non sentirete la mia voce dal vivo, per almeno 3 settimane non sarò in trasmissione. Mi prendo un po' di ferie per un giretto attraverso l'Europa e naturalmente giretto culminante con i concerti milanesi di Bruce Springsteen, ma poi alla fine ve lo ricorderò. Comunque, come dicevo, Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e quest'oggi è una novità, come sempre, molto interessante, perché è un album di covers. La titolare di questo album, che si chiama semplicemente Dynology Live, è una ragazza, un'ex ragazza per meglio dire, che si chiama Joan Osborne, viene dal Kentucky ed è attiva nel mondo della musica da tantissimi anni. Il suo primo album è del 1991. Lei è sempre stata molto innamorata di Bob Dylan, tanto che già nel 2017 pubblicò un album che si chiamava Songs of Bob Dylan, e a questo punto l'amore per appunto Bob Dylan l'ha portata in giro a fare concerti per diverso tempo, per diversi anni oserei dire. Uno di questi è stato registrato, che è quello che ci andremo ad ascoltare, alla Music Hall di Tarrytown nello stato di New York il 9 febbraio del 2018. Ci sono alcuni amici che suonano insieme a lei: Amy Helm, che è la figlia di Livon Helm, compianto come si suol dire, batterista cantante della band, Jackie Green, che è un grande chitarrista, e Robert Randolph, che è un altrettanto bravo chitarrista. Il brano che ho scelto per voi da questo album, lo ripeto, si chiama Dynology Live, e non poteva essere che questo che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Masters of War, Joan Osborne. Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You

proviene da un album del 1963 che si chiama The Freewheeling Bob Dylan, questa Masters of War che ci siamo ascoltati nella versione invece 2018, febbraio 2018, di John Osborne. Fra parentesi, i più pignoli potrebbero rilevare che nella copertina il nome del brano, il titolo del brano non è corretto, nel senso che è Master of War, invece la canzone si chiama Masters, plurale, ma questa è una piccola sottigliezza, giusto così per far vedere che ho guardato con attenzione la copertina. L'album da cui è tratto, lo ripeto ancora una volta, si chiama Dylanology Live ed è il terzo album live di John Osborne, interamente, come dice il titolo, dedicato a brani di Bob Dylan. E a costo di inimicarmi i Dylanology convinti, devo dire il mio pensiero, che è quello che i brani scritti e cantati in origine da Bob Dylan sono quasi sempre, diciamo il 99% dei casi, migliorano, fatti da altri artisti. Per cui in questo caso, cioè in questa prima parte della trasmissione, ci ascolteremo delle covers di brani di Bob Dylan. Naturalmente le covers di brani Bob Dylan sono migliaia, non sto esagerando, per cui avevo già fatto qualche tempo fa una prima parte di trasmissione sulle covers di Bob Dylan a B. Oggi facciamo dalla C alla F, giusto così per avere un punto su cui focalizzarsi. E il primo brano infatti si chiama Farewell Angelina. Ad interpretarlo è una persona che, fra l'altro, chi ha visto il film sa perfettamente, ha aiutato moltissimo Bob Dylan nella prima parte della propria carriera. Lei si chiama tuttora Joan Baez, o Baez come pare che si dica adesso. È stata molto attiva soprattutto negli anni 60 anche dal punto di vista politico, è stata una delle icone della controcultura americana. Qui abbiamo un long play molto molto particolare perché è registrato in Italia. Il titolo completo è Arena Civica di Milano, 24 luglio 1970. È stato pubblicato solamente in Italia ed è una cosa molto ricercata, fra parentesi, nel mercato discografico straniero. È un concerto molto particolare perché quelli erano tempi non bellissimi per la musica live in Italia. C'era un sacco di gente che pensava che la musica dovesse essere gratuita, per cui entravano, sfondavano, facevano casino con i biglietti che costavano l'equivalente di 2 euro attuali, ma questo sarebbe un discorso lunghissimo da fare. Diciamo che questo album contiene anche un paio di canzoni cantate in italiano, fra cui c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones di Gianni Morandi. E tutto inizia appunto con questa outtake da Bringing It All Back Home del 1965, album di Bob Dylan, e questa invece è John Baez il 24 luglio del 1970, Farewell Angelina. Oh! trumpets play slow. Farewell, Angelina, the sky is trembling, and I must go. There's no need for anger, there's no need for carabinieri. The edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling, and something back for something they get. I stood there and hummed. I tapped on her drum. I asked her how come. She buttoned her boot and straightened her suit, and she said, "Don't be cute." So I forced my hand in my pockets and felt with my thumbs, and gallantly handed her my very last piece of gum. She threw me outside. I stood in the dirt where everyone walked, but when finding out I'd forgotten my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway. She went to get it and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair, then leaned up against her Jamaican rum. And when she did come, I asked her for some. She said, "No, dear." I said, "Your words are not clear. You'd better spit out your gum." She screamed till her face got so red that she fell on the floor. I covered her up and then went and looked through a drawer. And when I was through, I filled up my shoe and brought it to you. You took me in. You loved me then. You did not waste time. And I never asked for your crutch, and I don't ask for mine. La sera del 5 novembre 2022, Charlene Mary Chan Marshall, detta Cat Power, alla Royal Albert Hall di Londra, ripropose integralmente quello che era, che per anni è stato ritenuto Royal Albert Hall Concert. Mi spiego, Bob Dylan arrivò in Inghilterra durante il tour che lo trasformò da prettamente acustico a anche elettrico. Molti non erano d'accordo e fu pubblicato questo bootleg, appunto si chiamava The Royal Albert Hall Concert, in cui a un certo punto una persona gridava Giuda, era un purista del folk naturalmente, e in realtà poi si è saputo che il concerto era stato registrato a Manchester, ma questa Royal Albert Hall Concert è rimasto dal 1966 e Cat Power quella sera, sempre alla Royal Albert Hall, l'ha riproposto in maniera integrale. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Fourth Time Around, l'album invece si chiama Cat Power Sings Dylan. In this room, the heat pipes just cough. E ho notato, fra parentesi, nel preparare questa trasmissione, che ci sono un sacco di covers di Dylan interpretato da cantanti femminili, e ce ne sono veramente tantissime, per cui ce ne sono anche in questa trasmissione, che lo ripeto vede solamente covers dalla C alla F, ce ne sono diverse. Andiamo subito con Susan Tedeschi, una delle mie beniamine, anche perché ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente in quel del Castel San Pietro in Blues nel 2006. Lei viene da Boston, il primo album, che fra l'altro è stato ripubblicato di recente e vi ho fatto ascoltare qualche brano, è stato pubblicato nel 1995. Nel 2001 ha sposato il grande chitarrista che risponde al nome di Derek Trax, col quale nel 2010 ha fondato quella band specialissima, fortissima, bravissima, che risponde al nome di Tedeschi Trax Band. L'album che vi propongo si chiama Live from Austin, Texas, è stato registrato nell'omonimo festival, anzi il festival in realtà si chiama Austin City Limit Festival, ad Austin, naturalmente in Texas, il 17 giugno del 2003. Il brano che ci interpreta Susan Tedeschi arriva da Freewheeling Bob Dylan, album del maggio del 1963, e si chiama Don't Think Twice, It's Alright. Susan Tedeschi. There ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, it'll never do somehow. Oh, when your rooster crows at the break of dawn, look out your window and oh, I'll be gone. Oh, and you're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in turning on your light, babe. The light I never knowed. Oh, now it ain't no use in turning on your light. I'm on the dark side of the road. Oh, now I'm thinking and wondering, walking down the road. Oh, I once loved a man, a child, I am told. Oh, Now don't think twice, it's alright. Ain't no use in calling out my name, boy, like you never done before. Oh, now it ain't no use in calling out my name now. I can't hear anymore. You might do a thing, oh, to try and make me change my mind and stay. Oh, but we never did too much talking anyway. Now don't think twice, it's alright. Can't tell. Oh, my goodbye's too good a word now, so I'll just say farewell. And I ain't saying that you treated me unkind. Oh, you could have done better for love. I shall adore mine. Oh, you just kind of wasted all time. And don't think twice, it's alright. Oh, you just kind of wasted all my precious time. Don't think twice, it's switches on broken gates, broken dishes, broken parts. Streets are filled with broken hearts, broken words never meant to be spoken. Everything's broken. Seems like every time I stop and turn around, something else just hits the ground. Broken cutters, broken saws, broken law, broken bodies, broken bones, broken voices, broken phones. Let the fever feel like a choking. Everything. Uno dei cosiddetti brani minori di Bob Dylan si chiama Everything is Broken e viene da un album che si chiama Oh Mercy del settembre del 1989. Ad eseguirlo in questa occasione Sheryl Crow insieme a Jason Isbell. Sheryl Crow, un cantante famosissima negli Stati Uniti soprattutto, dove ha un pubblico vastissimo, suona negli stadi e fa delle cose veramente molto molto apprezzate. Dopo anni di, come backing vocalist di tantissimi musicisti di tantissimi gruppi, non ultimo Michael Jackson, ha pubblicato il primo album nel 1993, Tuesday Night Music Club, che ebbe un successo strepitoso, oserei dire spaventoso quasi. Qui abbiamo un doppio album che si chiama Live from the Ryman and More, registrato per la maggior parte appunto al Ryman Auditorium di Nashville il 23 e il 24 settembre 2019. Il brano, lo ripeto, si chiama Everything is Broken. Altra cantante questa volta, cantante chitarrista, questa volta invece abbastanza sconosciuta e più, si chiama Carla Olson. Lei è nata e cresciuta a Austin, Texas, ma poi si è trasferita nel 1978 a Los Angeles, dove ha formato la band dei Textons, band con la quale ha pubblicato questo album che si chiama Detroit 85 Live and Unreleased, che è uscito postumo dopo lo scioglimento della band e l'inizio della carriera solista proprio come Carla Olson, tutto questo pubblicato nel 2008. L'album è stato registrato al Tracks di Detroit il 26 luglio del 1985. Un altro brano cosiddetto minore di Bob Dylan viene da Empire Burlesque, è un brano che si chiama Clean Cut Kid, Carla Olson and the Textons. Thanks very much. May you always do for others, let the others do for you. May you build a ladder to the stars, climb on every rung, may you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay. Forever young. Here's Mr. Doogie Vibe, I'm gonna sing for you. May you grow up to be righteous, may you grow up to be true, may you always know the truth and see the light surrounding you. Gregor Phil from the city of Dundee. May you always be courageous, stand upright and be strong, may you stay. To James Prime on the piano there. Forever young. Forever young. May you stay. Forever young. Here's Lorraine McIntosh now. Song always be sung, may you stay forever young. Everyone, forever young, forever young. E chi non vorrebbe rimanere per sempre giovani? Forever Young, uno dei grandi classici di Bob Dylan, viene da Planet Waves del gennaio del 1974, in questa occasione interpretato dai due vocalist, maschile e femminile, di una band di Glasgow che si chiama Deacon Blue, band che ha avuto un grande successo negli anni 90, band che ha fatto un paio di album live, forse un po' di più, ma un sacco veramente di singoli, sto parlando di singoli fisici, con un sacco di canzoni live allegate. Qui abbiamo questo doppio album che si chiama Live the Glasgow Barlands, che è registrato praticamente a casa loro, il 4 dicembre del 2016, Forever Young, un brano che è sempre un gran bel sentire e una gran bella speranza. A interrompere questo matriarcato, o quasi, arriva invece Bruce Springsteen e la sua E Street Band. Piccolo antefatto, il 14 maggio scorso, quindi praticamente un mese fa, il buon Bruce era in concerto a Manchester, una delle prime date, se non la prima, non ricordo bene, del suo nuovo tour. Il tour si chiama Land Hope and Dreams Tour, appunto, e nel presentare questa canzone fece un discorsetto sulla situazione americana, che a lui, no, come ad resto a tanti, non piace molto. Questo discorso, come si usa dire adesso, è diventato virale, è stato pubblicato anche dai giornali che meno te l'aspetti, e ho qualche problema, credo che Bruce Springsteen avrà qualche problema a tornare negli Stati Uniti. Comunque, per immortalare questo discorso, la casa discografica ha pubblicato un extended play con 5 brani registrati appunto in quell'occasione. Era il 14 maggio del 2025, lo ripeto, alla Co-op Live di Manchester, e il tutto si conclude con un grande brano di Bob Dylan che si chiama Chimes of Freedom, che Bruce Springsteen già faceva ai tempi di Human Right Now, del tour di Human Right Now. Chimes of Freedom è stato pubblicato originariamente su Another Side of Bob Dylan dell'agosto del 1964 e fa più o meno così. Thank you, Manchester, for a beautiful night. Woo! You're a great audience, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Always still a little nervous on that first night, you know. Takes a little getting used to. Even after all this time. Take this home with you. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside a doorway, thunder crashing. As majestic bales of boats struck shadows in the sound, seemed to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night, we gazed upon the chimes of freedom flashing. Come on, band! Even through a cloud-wide curtain, their far-off corner flash, hypnotic splattered mist was slowly lifted. Electric lights still struck like arrows, shine like the folded ones, condemned to drift, or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on the speechless seeking trail, for the lonesome hiding lovers with two personal. And for each unharmful gentle soul displaced inside a jail, we gazed upon the shines of freedom flashing. I recall when we were caught trapped by no track of hours, for they hang suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Thank you very much for your patience, ladies and gentlemen, indeed. Would you please welcome, as KRLA presents, Joe Cocker and the Chris Staton Band. Yeah, hello. Please don't put a price on my soul. Can't touch. stato introdotto alla grande Joe Cocker con questo album, si chiama Live in LA. Vado molto veloce perché sono chiaramente in ritardo come al solito, e questo classico di Bob Dylan che si chiama Dear Landlord arriva da un album che si chiama John Wesley Harding del dicembre del 1967, mentre questo Live in LA di Joe Cocker è stato registrato all'Hollywood Bowl, sempre di Los Angeles naturalmente, nel 1972. Non è dato sapere in che data. Seconda parte di Città Fujiko Live Club. Oggi abbiamo fatto una prima parte intestata a Bob Dylan, ma nella seconda parte, come sempre, arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. Come ho già detto la volta scorsa, da un paio di volte a dire il vero, con l'estate si moltiplicano le registrazioni live, però quest'oggi abbiamo solo, si fa per dire, 5 decadi, perché il criterio di scelta è sempre di un brano per ogni decade. Oh, Prima però devo dire che abbiamo iniziato la seconda parte con la novità che vi propongo quest'oggi. È il nuovo album di Joan Osborne, una cantante veterana della scena musicale americana. Ultimamente ha cantato, ha collaborato anche con Phil Lesh and Friends e altre bands degli ex Grateful Dead. Questo album si chiama Dylanology Live, è il suo terzo album dal vivo, vede diversi ospiti ed è stato registrato alla Music Hall di Tarrytown nello stato di New York il 9 febbraio del 2018 nel tour di presentazione dell'album che aveva fatto l'anno precedente, che si chiamava Songs of Bob Dylan, quindi nell'album in studio dedicato a Bob Dylan, tour dedicato alle canzoni di Bob Dylan e pubblicazione però solamente avvenuta qualche settimana fa. Il brano che ci siamo ascoltati per aprire la seconda parte si chiama Spanish Harlem Incident e arriva da un album che si chiama Another Side of Bob Dylan dell'agosto del 1964. E come dicevo, Record Today, iniziamo dagli anni 70, esattamente dal 1972. C'è stato un periodo in quel, diciamo per tutti gli anni 70, così ci prendiamo sicuramente, che il Giappone, la Sony giapponese, aveva la facoltà di pubblicare album solamente per il mercato interno, solamente per il mercato giapponese. Ne uscirono diversi, mi ricordo uno di Cat Stevens, uno splendido dei Weather Report e questo dei Chicago, che durante il primo tour giapponese della loro carriera incisero questo doppio dischetto, anzi allora era un doppio long play a dire il vero, che si trovava anche in Italia, specificatamente da Nannucci, che per anni è stato uno dei migliori negozi di dischi italiani, però costava una cifra veramente colossale. Avevo un amico che aveva una disponibilità finanziaria notevolmente superiore alla mia e lui lo acquistò, per cui ebbi la fortuna di ascoltarlo a suo tempo. Recentemente è stato ripubblicato in CD, esattamente nel 1996, ed è ascoltabile da tutti a prezzi più che ragionevoli. L'album, lo ripeto, un doppio, è stato registrato al Festival Hall di Osaka, in Giappone, anche qui adesso non si dice più Osaka ma si dice Osaka. Ultimamente negli ultimi anni stanno cambiando tutti gli accenti, ma comunque l'11 giugno del 1972, per favorire, per agevolare, per avere il pubblico giapponese dalla propria parte, i Chicago tradussero un paio di canzoni del loro repertorio in giapponese. Questo è uno di quelli. In inglese si chiama Question 67 and 68, in giapponese mi rifiuto assolutamente di pronunciarlo. Loro sono Chicago dal 11 giugno del 1972. Thank you. Non so precisamente come siano andati Chicago con il giapponese, ma questa era la versione giapponese appunto di Question 67 and 68. L'album si chiama semplicemente Live in Japan ed è stato registrato a Osaka appunto l'11 giugno del 1972. Dieci anni dopo invece è stato registrato il brano che ci andremo ad ascoltare. Il tutto arriva da una band che spero non abbia bisogno di presentazioni, si chiamano Cure, dirò solamente che sono in giro dal 1976, sempre sotto la magistrale guida di Robert Smith. Hanno fatto 7 album dal vivo più un sacco di singoli anche loro con canzoni dal vivo. Molti dei loro primi album sono stati ripubblicati con un dischetto aggiunto di pieno di bonus tracks sia in studio che dal vivo. Questo è uno di quelli, Pornography, è il loro quarto album di studio, è uscito nel maggio del 1982 ed è stato ripubblicato in versione 2 CD nel 2006. Ci sono due canzoni registrate l'11 giugno del 1982 alla Anchette Belgique di Bruxelles, in Belgio. Quello che ho scelto per voi si chiama Siamese Twins, loro sono Cure. This is called Siamese Twins. Thank you. Già di suo, per quel che mi riguarda, Pornography, quarto album in studio dei Cure, è assolutamente splendido. Nella ristampa del 2006, con un dischetto aggiunto che contiene 6 canzoni dal vivo, è veramente imperdibile. Quello che ci siamo ascoltati, Siamese Twins, dall'Ancienne Belgique di Bruxelles, spero si dica così, il 11 giugno del 1982. Andiamo avanti ancora 10 anni, arriviamo al 1992, c'è un concerto per beneficenza per un'associazione che si chiama IRSA, cioè IRSA, chiamiamola così, che è l'International Rett Syndrome Association. La sindrome di Rett è un disordine neurologico che colpisce le ragazze durante il loro sviluppo, e questa associazione naturalmente cerca di raccogliere fondi raccoglie fondi, per fortuna, per le cure di cui queste ragazze hanno bisogno. E per raccogliere fondi, cosa c'è di meglio di un bel concerto della Allman Brothers Band? Non c'è assolutamente, c'è poco di meglio, diciamo. E quel concerto è stato pubblicato in tiratura limitata, 15.000 copie, ed è un oggetto di culto per tutti gli amanti dell'Allman Brothers Band. Serata acustica che l'ha visti di scena in quel locale che si chiama, anzi non il locale, l'occasione era la Radio Records Convention di Los Angeles in California, l'11 giugno del 1992. Il pezzo che ho scelto per voi, forzatamente perché è quello più corto, si chiama Seven Turns, loro sono Allman Brothers Band. What did you say? Anyway, this is Seven Turns, this song called Seven Turns. Hey, I was busy. Sometimes you get lost. Sometimes in the dark of night you see the crossroads sign. One way is the morning light. You got to make up your mind. Somebody's calling your name. Somebody's waiting. That's what it's all coming to. Get your hand in the air, you rapping. Throw your hands in the air, and you know it. when the sun goes down. Be so glad when the sun goes down. What? When the sun goes down. E qui parte direttamente il brano seguente, a noi interessava quello che ci siamo testé ascoltati. Loro sono i fratelli Dickinson, Luther suona la chitarra e canta, Cody invece suona un po' di tutto, la batteria, washboard, la chitarra, il basso e canta anche egli poco per fortuna. Però vengono meglio conosciuti come North Mississippi All Stars. Loro due sono il fulcro della band, poi intorno ci sono un sacco di musicisti, come in questo caso il Festival di Boonaroo l'11 giugno del 2004. Loro, North Mississippi All Stars, insieme a, come dicevo, diversi altri musicisti, alcuni membri della famiglia Burnside, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, dei nomi Mississippi All Stars in versione quartetto è uscita proprio in questi ultimi giorni, anzi direi venerdì scorso addirittura, e un nuovo album che si chiama Still Shaking, album in studio, per cui al momento non interessa questa trasmissione. Loro hanno fatto parecchi album dal vivo, molti dei quali autoprodotti e di difficile reperibilità, dovete andare sul loro sito per poterli acquistare. L'album in questione che abbiamo ascoltato si chiama Hill Country Review, perché appunto più che North Mississippi All Stars era proprio una country review. Il tutto, come dicevo, registrato al Festival di Boonaroo, Manchester, la città, nello stato del Tennessee. Fra l'altro ho letto proprio stamattina che uno dei cofondatori del Boonaroo Festival è morto alla tenera età di 51 anni e la cosa dispiace veramente sempre tanto. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Be So Glad, North Mississippi All Stars, dal 2004. Mr. Oral Burnside, I'd like to thank you very personally for everything you've done for us. A concludere Record Today di oggi, Radiators, una band che è più conosciuta anche come New Orleans Radiators, perché ci sono diversi gruppi che si chiamano Radiators in giro per il mondo. Sono stati attivi dal 1978 al 2011, poi hanno avuto qualche riunione sporadica, sempre però solo a New Orleans, dove fra l'altro si è tenuto il loro ultimo concerto, che è stato immortalato in questo album che ci andiamo ad ascoltare. L'album si chiama The Last Watusi. Non sono riuscito a sapere che cos'è questo Watusi, magari se qualcuno lo sa può anche chiamare e spiegarmelo. È il loro quarto album dal vivo e, come dicevo, è quello che documenta il loro ultimo concerto al Tipitinas di New Orleans l'11 giugno del 2011. Ce l'andiamo ad ascoltare, il brano che ho scelto per voi si chiama Roll Me Over, loro invece si chiamano Radiators. Yeah. to know me right. You got to roll me over. This is gonna take all night. Radiators dal loro ultimo concerto l'11 giugno 2011 al TPTNAS di New Orleans. L'album si chiama The Last Watusi, il brano Roll Me Over. E gentile pubblico, quest'oggi ho cannato veramente di brutto, non farò in tempo a farvi ascoltare il prossimo brano per intero, dovrò tagliarlo, che è una cosa che odio, perché prima vi devo ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club da appunto Radio Città Fujiko da Bologna. E Città Fujiko Live Club che per un mesetto non sentirete, un po' di vacanza, i concerti di Bruce mi portano lontani da voi, ma tranquilli, tornerò sicuramente per luglio, mi sembra il 9, ma non sono sicuro. E vi lascio in compagnia della novità che vi ho proposto quest'oggi, un pezzettino di questo brano di Joan Osborne dal suo album Dylanology Live. Il brano si chiama Tonight I'll Be Staying With You. Scusate il taglio, ciao a tutti da Nevio. Tonight, I'll be staying here. stay in your